e realizzare frettolosamente dei depositi di armi. I dirigenti sindacali iniziarono ad organizzare i lavoratori non qualificati, quelli che nelle rivolte spontanee avevano avuto una parte decisiva. Nel 1880 si formò quindi la Federazione dei Lavoratori degli Stati Uniti e del Canada. L'anarchismo ebbe una grande crescita, soprattutto a Chicago. I membri attivi delle organizzazioni anarchiche erano circa 3.000. Alcuni sindacati decisero nel 1884 di iniziare un'intensa campagna per la giornata delle 8 ore. In una riunione a Chicago fu stabilito che il 1 maggio 1886 sarebbe stato il giorno in cui si sarebbe tenuto uno sciopero generale per la giornata lavorativa di 8 ore. Via via che quel giorno si avvicinava, il movimento guadagnava in ampiezza e in determinazione, non solo a Chicago, ma in tutto il paese. Con la depressione industriale nel biennio 1884-1886 la situazione dei lavoratori peggiorò ulteriormente. I disoccupati erano decine di migliaia. Furono fatti scioperi ma con scarsi successi per reagire ai tagli dei salari, alle serrate, alla miseria. Nel maggio del 1886 più di 200.000 operai degli Stati Uniti avevano ottenuto una riduzione di ore ed altri vantaggi. Dei 110.000 operai che a Chicago e dintorni si erano dichiarati in sciopero, 47.500 ottennero una vittoria completa. All'inizio gli anarchici guardarono al movimento per le 8 ore criticamente, sostenendo che era inutile fare qualsiasi richiesta ai capitalisti. Ciò che si doveva fare invece era armare la classe operaia e, come dicevano, prendere il controllo dell'intero dannato sistema per cambiarlo. Ma dato che la rivendicazione divenne l'argomento principalmente discusso nel proletariato, gli anarchici si unirono anch'essi al movimento. La stampa conservatrice bollò tutta la mobilitazione per le 8 ore come straniera, anti-americana e anarchica. Il sindaco di Chicago dichiarò che non avrebbe permesso l'ingresso in città di truppe richiamate per massacrare i lavoratori, insistendo sul fatto che erano anch'essi cittadini di Chicago. Uomini e donne attraversarono le strade in corteo portando bandiere rosse e nere, e la polizia spesso li disperdeva manganellandoli e prendendoli a calci, contrariamente agli ordini del sindaco. La polizia evidentemente riceveva ordini da altri. Il Tribune, giornale di Chicago, pubblicava articoli e lettere dei propri abbonati che spronavano le autorità a sciogliere raduni dei lavoratori con le armi da fuoco e, se necessario, con la dinamite. Ascoltiamoci ora l'inno dei pezzenti, eseguito dal canzoniere internazionale. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età, la schiera innumere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha. Nel crudo inverno la nostra prole, per lunga inedia languir vediam, solo pei ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiamo. Pur natura tutti uguali, piedi ritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressor. Non sia pace fra i mortali finché muon sovr'altro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Triste spettacolo, le nostre donne per noi primizie non han d'amor. Ancora in puberi, sciolte le gonne, si danno in braccio di lor signor. Son nostre figlie le prostitute che muoion tisiche negli ospedal. Le disgraziate si son vendute per una cena, per un grembiar. Pur natura tutti uguali, e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché non sovra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Di patria al nome, talor sospinti, contro altri popoli noi si pugnò, ma vincitori fossimo o vinti, la nostra sorte mai non cangiò. Tedesco d'Italo, se va padrone, il sangue nostro deve succhiar. La patria libera è un'irrisione, se ancora il basto ci fan portar. Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché non sovra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Nelle officine, sui monti e piani, giù nelle mine, sudiam, sudiam, ma delle nostre fatiche immani il frutto intero non raccogliam. Poi fatti vecchi veniam rinchiusi dentro i ricoveri di carità, e sul berretto di noi reclusi bollano i ricchi la lor pietà. Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché l'uomo sovra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Non sia pace fra i mortali, finché l'uomo sovra altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Il giorno di Natale 1885, in Prairie Avenue, gli anarchici organizzarono una marcia di diverse centinaia di donne e uomini. La marcia si fermò più volte di fronte alle residenze dei benestanti, lanciando urla, fischi e suonando i campanelli. In febbraio la McCormick di Chicago licenziò 2100 operai perché avevano rifiutato di abbandonare le loro organizzazioni sindacali, sostituendoli con dei crumiri protetti da 300 investigatori della Pinkerton, armati, pagati per proteggerli. Una delle organizzazioni coinvolte nella serrata alla McCormick era la International Carpenters Union, della quale il dirigente più energico era Louis Ling, anarchico. Poco dopo, la serrata indirizzò questa circolare ai suoi uomini: «Dico che dobbiamo resistere a questi mostri, ai capitalisti e ai loro mercenari. Dobbiamo combatterli con armi uguali, se non migliori delle loro, e quindi io vi chiamo alle armi. Il 1° maggio si avvicina, dovete uccidere i pirati, eliminare i vampiri». La Die Arbeiter Zeitung, giornale anarchico, scriveva il 21 aprile 1886: «La polizia e i soldati vanno affrontati da eserciti armati di lavoratori. Le armi sono in questi tempi più necessarie di qualsiasi altra cosa. Chi non ha denaro dovrebbe vendere il proprio orologio, se ne ha uno, e comprare armi da fuoco. Pietre e bastoni non serviranno a nulla contro gli assassini prezzolati degli estorsori. È tempo di armarsi». Il 1° maggio 1886 migliaia di lavoratori scioperarono negli Stati Uniti per ottenere la giornata lavorativa di 8 ore. A Chicago più di 110.000 lavoratori scioperarono. Nei primi due giorni di maggio le manifestazioni furono pacifiche. Alla fabbrica McCormick, il 3 maggio, i lavoratori licenziati tennero un raduno nei pressi della fabbrica. August Spies, anarchico, stava arringando la folla sulle 8 ore quando si udì il fischio della fabbrica e i crumiri iniziarono a uscire alla fine della giornata. Ne seguì una battaglia a colpi di pietre, mattoni, pugni e bastoni. Poi arrivò la polizia aprendo il fuoco sulla folla. Gli operai si difesero con le pietre, ma anche con colpi di pistola. La polizia aprì allora un fuoco intenso e continuo sulla folla, anche contro bambini, donne ed anziani. In pochi minuti la polizia uccise 6 uomini e ne ferì molti altri. La notte stessa si svolse a Griff Hall un incontro al quale parteciparono tra gli altri George Engel, Louis Ling e Adolf Fischer. In seguito i pubblici ministeri del processo per i fatti di Haymarket definiranno quell'incontro la cospirazione del lunedì notte, poiché, secondo loro, proprio durante questa notte sarebbe stato messo in atto un piano per attaccare la polizia. Gli scioperi si generalizzarono, gli scioperanti diventarono più di 50.000, la polizia caricò una manifestazione di 600 donne che lavoravano nelle sartorie. Nelle strade comparvero dei volantini che chiamavano i lavoratori a un massiccio raduno di protesta in Haymarket Square per la sera del 4 maggio, a cui parteciparono circa 20.000 persone. Era presente anche il sindaco Harrison, che si spostava tra la piazza e la vicina stazione di polizia, dove molti agenti erano pronti in attesa. Poi il sindaco, vedendo che la manifestazione si era svolta pacificamente, abbandonò la piazza quando il comizio si stava concludendo, dicendo al capitano della polizia di dare ordine alle sue forze di ritirarsi nelle proprie sedi. Ma quando la manifestazione stava per finire, un ispettore di polizia ordinò a uno dei suoi sottoposti di far uscire un intero plotone di 176 uomini e marciare verso la piazza per ordinare al raduno di sciogliersi. Pioveva, la folla si era ridotta solamente a circa 500 persone. Il plotone arrivò a pochi passi dalla folla. Il comandante gridò, sfoderando la spada, avanzando verso l'oratore: «Vi intimo, in nome del popolo, di disperdervi immediatamente e pacificamente». «Per quale ragione, capitano? Siamo pacifici», disse Filden, che stava concludendo il suo comizio. Dopodiché, sicuramente, non disse: «Ecco i cani da caccia, uomini, fate il vostro dovere e io farò il mio», come avrebbe poi sostenuto la polizia. Poi esplose una bomba tra le forze dell'ordine. Qualcuno, forse un anarchico, ma più probabilmente un sicario assoldato, aveva lanciato la bomba. Iniziò una sparatoria, i poliziotti spararono sulla folla ma anche verso gli altri poliziotti perché non erano in grado di vedere a causa del fumo. I lavoratori risposero al fuoco. Nel caos che seguì, 7 agenti di polizia furono uccisi e altri 77 rimasero feriti. I lavoratori feriti furono portati via da amici e parenti e quindi non registrati per paura di essere arrestati. Il numero esatto di vittime tra i lavoratori non è mai stato stabilito, ma si stima che sia stato il doppio o il triplo di quello degli agenti di polizia. Ed ora ascoltiamo Chicago, We Can Change the World di Graham Nash. They've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? politicians, sit yourselves down, there's nothing for you here. Won't you please come to Chicago for a ride? Don't ask Jack to help you, 'cause he'll turn the other ear. Won't you please come to Chicago, or else join the other side? We can change! Yes, we can change the world! Tutti gli oratori che avevano preso la parola dai Market, ad eccezione di Parsons che si era allontanato, vennero arrestati. L'Arbeiter Zeitung fu soppresso e tutti i suoi redattori e collaboratori arrestati. Le riunioni operaie furono proibite. Poi, il 17 maggio, iniziò il processo. Parsons, che era latitante, sicuro della sua innocenza, si presentò di sua volontà sul banco degli accusati. L'esame dei giurati durò 22 giorni. Il 15 luglio il rappresentante dello Stato diede inizio alla sua accusa, addossando agli imputati delitti di cospirazione ed assassinio. La giunta era composta di uomini d'affari, loro impiegati e la sorella di uno dei poliziotti morti, a cui successivamente si seppe che il capitano di polizia Schack aveva consegnato una grossa busta di denaro. Non c'è nessuna prova a carico degli imputati. L'accusa non riuscirà in alcun modo a dimostrare alcun collegamento tra gli imputati e il lancio della bomba, ma li accuserà comunque di cospirazione e incitazione alla violenza. Ma gli accusati avevano impiegato parole dure contro l'attuale ordine delle cose, contro l'arrogante distribuzione del lavoro e della ricchezza, contro le leggi e i suoi custodi, contro la tirannia dello Stato e il privilegio della proprietà. Per questo il sistema americano condannò gli 8 imputati. Il 20 agosto venne reso pubblico il verdetto della giuria. August Spies, Michael Schwach, Samuel Fielden, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel e Louis Link furono condannati a morte. Oscar Niebi a 15 anni di reclusione. Chi erano e che cosa dissero al processo i condannati? August Spies era nato a Landeck, nella Germania sud-occidentale, nel 1855. Nel 1872 si trasferì negli Stati Uniti e un anno dopo trovò impiego a Chicago come tipografo. Nel 1877 si iscrisse al Partito Socialista. Nel 1880 entrò a far parte del giornale Arbeiter Zeitung e poco tempo dopo ne divenne il direttore, incarico che portò avanti attivamente fino al giorno in cui venne arrestato. Nel suo discorso disse: «Al dirigermi a questo tribunale lo faccio in qualità di rappresentante di una classe che si trova al cospetto dei rappresentanti di un'altra classe nemica. Mi si accusa di complicità in un assassinio e mi si condanna nonostante il pubblico ministero non abbia presentato prova alcuna del fatto che io conosca colui che gettò la bomba e nemmeno che in tale fatto io abbia avuto qualche ruolo. Davanti a questo tribunale, davanti al pubblico, io accuso il procuratore dello Stato, il capitano Bonfield, per l'infame cospirazione architettata per assassinarci. Attraverso la ricerca scientifica abbiamo provato fino alla sazietà che il sistema salariale è la causa di tutte le iniquità più mostruose. Abbiamo detto inoltre che il sistema salariale, come forma specifica dello sviluppo sociale, dovrà cedere il passo per necessità logica a forme più elevate di civilizzazione come il cooperativismo universale, quale è il socialismo. Abbiamo detto che tale teoria, tale disegno di miglioramento futuro non erano materia di scelta, ma necessità storica e che per noi la tendenza del progresso era quella dell'anarchia, ovvero una società libera, senza classi né governanti, una società nella quale la libertà e l'uguaglianza economica di tutti produrrà un equilibrio stabile come base e condizione dell'ordine naturale. Ma se credete che impiccandoci potrete contenere il movimento operaio, se ci credete, allora impiccateci. Michael Schwab era nato a Mannheim, Germania, nel 1853 e ricevette la sua prima educazione in un convento. Per alcuni anni lavorò come rilegatore in diverse città tedesche. Nel suo paese si iscrisse al Partito Socialista. Nel 1879 si trasferì negli Stati Uniti, dove collaborò con Spies nell'Arbeiter Zeitung. Nel suo discorso disse: «Chiamare giustizia i procedimenti seguiti in questo processo sarebbe una burla. Non si è fatta giustizia e nemmeno si potrebbe farla, perché quando una classe ne affronta un'altra è un'ipocrisia e una malignità il solo poterlo supporre. Parlate di una gigantesca cospirazione, ma un movimento non è una cospirazione. E noi abbiamo fatto tutto alla luce del giorno. Non c'è nessun segreto nella nostra propaganda. Annunciamo a voce e per iscritto un'imminente rivoluzione, una trasformazione del sistema di produzione di tutti i paesi industriali del mondo. E questo cambio verrà, non può fare a meno di venire. Nei grandi centri industriali degli Stati Uniti c'è più miseria che nelle nazioni del vecchio mondo. Il socialismo, tale come noi lo intendiamo, significa che la terra e le macchine devono essere di proprietà comune del popolo, che la produzione deve essere regolata ed organizzata da associazioni di produttori che suppliscono alle domande di consumo. Stando alle statistiche, 4 ore di lavoro al giorno saranno sufficienti per produrre tutto ciò che vi è di necessario per una vita confortevole. Così avanzerebbe del tempo per dedicarsi alle scienze e all'arte. Nel presente stato sociale la violenza si utilizza in ogni momento e per questo noi anche propagandiamo la violenza come necessario strumento di difesa. Noi anarchici crediamo che si avvicinano i tempi in cui gli sfruttati reclameranno i loro diritti agli sfruttatori e crediamo inoltre che la maggioranza del popolo, con l'aiuto dei reietti delle città e della gente semplice delle campagne, si ribellerà contro la borghesia di oggi. Oscar Niebe era nato a Filadelfia. Nel periodo in cui venne arrestato si dedicava a piccoli lavoretti saltuari. La sua sventurata compagna morì di dolore nell'apprendere che avevano condotto il marito nelle carceri di Chicago. Non aveva nulla a che vedere con i fatti di Haymarket. Nel suo discorso disse: «In questi ultimi giorni ho potuto apprendere ciò che è la legge, poiché prima non ne ero a conoscenza. Ignoravo di poter essere coinvolto in un crimine solo in quanto conoscente di Spies, Fielden e Parsons. Ho sempre pensato che avevo il diritto di esprimere le mie idee. Ciò nonostante mi si considera implicato in questo delitto, in questo presunto delitto. Un altro crimine che ho commesso è quello di aver contribuito ad organizzare diverse associazioni di mestiere, di aver dato da parte mia tutto quanto ho potuto per ottenere successive riduzioni nella giornata di lavoro e di aver propagandato idee socialiste. Adolf Fischer era di origine tedesca. A 10 anni emigrò con la famiglia negli Stati Uniti e da Nashville imparò il mestiere di tipografo. Era un socialista, divenne poi editore e proprietario del giornale Staatszeitung di Little Rock. Nel 1881 si trasferì a Chicago, dove lavorò come tipografo fondando poi un giornale socialista radicale. Nel suo discorso disse: «Non dirò molto, solo voglio protestare contro la pena di morte che mi imponete, perché non ho commesso alcun crimine, anche se sono tra coloro che prepararono la dimostrazione di Haymarket, non ho nulla a che vedere con il fatto della bomba. La dimostrazione di Haymarket non fu organizzata per commettere crimine alcuno, fu organizzata al contrario per protestare contro le violenze e gli assassini della polizia nella fabbrica McCormick. Se credete che con questo crudele verdetto annienterete gli anarchici e l'anarchia, siete in errore, perché gli anarchici saranno sempre disposti a morire per i loro principi, e questi sono immortali». Louis Ling nacque a Mannheim, in Germania, il 9 settembre del 1864. Suo padre lavorava nel settore della legna per costruzioni e sua madre era lavandaia. Su di sé scrisse: «Non mi era ignoto che il borghese padrone di mio padre, nonostante la vita dispendiosa che conduceva, si faceva sempre più ricco, mentre mio padre, che sacrificando la sua salute aveva contribuito a sfornare quella ricchezza, veniva abbandonato come uno strumento ormai inutile. Tutto questo infiltrò nella mia anima il germe dell'amarezza e dell'odio verso la società presente, e questo odio si fece ancora più intenso quando entrai nel recinto industriale». E nel suo discorso al processo disse: «Mi accusate di assassinio e che prove avete per questo? No, non è per un crimine che ci condannate a morte, è per ciò che qui si è affermato in tutti i modi, è per l'anarchia. Mentre io dichiaro apertamente che parteggio per l'uso della forza al fine di conquistare una vita migliore per i miei compagni e per me, mentre affermo che di fronte alla selvaggia violenza di un poliziotto è necessario impiegare la forza bruta, voi cercate di impiccare 7 uomini appellandosi alla falsità, allo spergiuro, comprando testimoni e fabbricando in conclusione un processo iniquo dal principio alla fine». George Engel nacque a Kassel in Germania nel 1836. Ricevette un'educazione popolare nelle scuole pubbliche ed apprese il mestiere di tipografo. Nel 1873 si trasferì negli Stati Uniti ed un anno più tardi arrivò a Chicago, dove entrò nel Partito Socialista. Nel suo discorso disse: «È per la prima volta che compaio di fronte ad un tribunale americano e addirittura mi si accusa di assassinio. Ma per quale ragione sono qui? Per quale ragione mi si accusa di essere un assassino? Per le stesse ragioni per cui dovetti abbandonare la Germania. Anche qui, in questa libera repubblica, nel paese più ricco del mondo, ci sono molti operai che non hanno un posto al banchetto della vita e che, come paria sociali, trascinano miserabilmente la loro esistenza. Qui ho visto esseri umani cercare qualcosa con cui alimentarsi tra i mucchi della spazzatura lungo le strade. Dalla storia di fatti possiamo apprendere che fu la forza a liberare i primi colonizzatori di questo paese e che solo mediante la forza venne abolita la schiavitù». Samuel Fielden nacque a Totsmorden, in Inghilterra, nel 1844. venne nominato soprintendente delle scuole domenicali del suo paese. Nel 1864 si trasferì a New York e lavorò in alcune industrie tessili. L'anno successivo si trasferì a Chicago, si dichiarò socialista e fu uno dei membri più attivi dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Nel suo discorso disse: «Discutendo, analizzando cose ed esaminando le diverse soluzioni che venivano allora proposte, ci fu chi mi disse che il socialismo significava l'eguaglianza delle condizioni e per me questo fu l'insegnamento. Compresi immediatamente quella verità e da allora fui socialista. Io ho invocato i principi del socialismo e dell'economia sociale e per questa ragione e solo per questa ragione mi trovo qui e sono condannato a morire. Se volete la mia vita per aver invocato i principi del socialismo e dell'anarchia, così come io penso e credo di averli onorevolmente invocati in favore dell'umanità, vi farò contenti e credo che questo prezzo sia insignificante di fronte ai risultati grandiosi del nostro sacrificio». Albert Parsons nacque a Montgomery, in Arkansas, nel 1848. Lavorò presso il giornale The Spectator a Waco. A Chicago lavorò per qualche tempo in diverse tipografie e divenne un agitatore tra i lavoratori. Nel 1879 venne candidato dal Partito Socialista alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 1883 contribuì a stilare il programma dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori nel Congresso di Pittsburgh. Nel 1884 fondò il giornale The Alarm. Nel suo discorso disse: «Negli ultimi 20 anni la mia vita si è completamente identificata con il movimento operaio d'America, nel quale ebbi sempre una partecipazione attiva. Questo processo ha avuto inizio ed è proseguito contro di noi, ispirato dai capitalisti, da coloro che credono che il popolo non possieda che un diritto ed un dovere, quello dell'obbedienza. Siamo stati accusati di essere degli assassini, ma si è finito per condannarci in quanto anarchici. Ebbene, io sono anarchico. Cos'è il socialismo o l'anarchia? Definiti sinteticamente, sono il diritto dei produttori all'uso libero ed uguale degli strumenti di lavoro e il diritto ad usufruire del prodotto di quel lavoro». Ascoltiamoci quindi l'inno del 1° maggio, eseguito dal Canzoniere Internazionale. Vieni o maggio, t'aspetta le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori. Vieni e splendi alla gloria del sole. Squilli un inno di alate speranze al gran verde che il frutto matura, alla vasta idea fioritura, in cui freme il lucente avvenir. Disertate falangi di schiavi, dai cantieri, dall'arse officine, via dai campi, su dalle marine, tregua, tregua all'eterno sudor. Innalziamo le mani incallite e siamo fascio di forze fecondo. Noi vogliamo libera il mondo dai tiranni dell'ozio e dell'odio. Giovinezze, dolori, ideali, primavere dal fascino arcano, verde maggio del genere umano, date ai petti il coraggio e la fede, date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivolto all'aurora, al gagliardo che lotta e lavora, al veggente e poeta che muore. Date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivora, al gagliardo che lotta e lavora, al veggente poeta che muore. Un custode di saloon di Indianapolis aveva rilasciato una dichiarazione giurata supportata dalla deposizione di altri due uomini che erano presenti e che avevano anch'essi sentito uno sconosciuto che è entrato nel saloon il 1 maggio con una borsa in mano che diceva di venire da New York e che stava andando a Chicago e che, indicando la borsa, disse a proposito delle manifestazioni operaie: «Ho qualcosa qui dentro che funzionerà, ne sentirete presto parlare». La descrizione dello sconosciuto corrispondeva perfettamente a quella data da un testimone durante il processo, ma il giudice e la giuria non ne tennero conto. Come abbiamo visto, il processo voleva solo condannare in maniera esemplare l'anarchia, il socialismo ed i movimenti dei lavoratori. Giunsero da tutti i paesi petizioni per la commutazione della pena al governatore di quello stato, ma sempre inutilmente. La notizia della sentenza si diffuse rapidamente tra i circoli operai, scatenando manifestazioni in favore dei condannati in tutto il mondo. Dopo che le condanne a morte furono eseguite, furono ricordati come i martiri di Chicago. Ling sapeva che sarebbe morto e decise di morire con i suoi secondini. Fu fatta una perquisizione nella sua cella e furono trovate 4 bombe. La mattina del giorno 10, il guardiano di Ling lo vide accendersi una sigaretta e immediatamente si udì una forte detonazione. I secondini si lanciarono nella cella piena di fumo. Ling si trovava stesso al suolo con la testa aperta, la mandibola rotta e il cranio bucato. Morì dopo 5 ore. Si era suicidato con una piccola capsula piena di fulminato di mercurio. Il sabato pomeriggio Engel cercò di avvelenarsi con una bottiglia di laudano. Fu chiamato un medico e gli si fecero prendere degli emetici. Fu impiccato 3 giorni dopo. Il giorno prima dell'esecuzione, a Samuel Fielden e Michael Schwab, in seguito alla domanda di clemenza rivolta al governatore, ebbero commutata la pena di morte in ergastolo. Pochi giorni dopo che le condanne a morte erano state eseguite, i lavoratori di Chicago tennero un'imponente manifestazione. 3 anni dopo, gli operai di New York fecero una grandissima manifestazione per ricordare i martiri di Chicago, a cui parteciparono molte migliaia di lavoratori, nonostante l'atteggiamento provocatorio della polizia. Il 26 giugno 1893 il governatore dell'Illinois firmò i provvedimenti di grazia per Fielden, Niebe e Schwab, dopo aver affermato l'innocenza di tutti e 8 gli imputati. Nel 1889 venne eretta nel mezzo di Haymarket Square una statua di bronzo raffigurante un poliziotto. Il 4 maggio 1927 una macchina uscì di strada schiantandosi sul monumento, probabilmente deliberatamente. Fu deciso allora di spostare il monumento vicino al Lincoln Park. Negli anni 60 la statua fu collocata vicino a Haymarket Square. Nel 1970 fu danneggiata dagli Weather Underground. Il sindaco allora piazzò un uomo a guardia della statua per 2 anni. Prima dell'ultimo spostamento nel 1972 nel giardino del quartier generale della polizia di Chicago. Il piedistallo della statua, ormai vuoto, si riempì di graffiti inneggianti all'anarchia. Il 1 maggio è commemorato in tutto il mondo in memoria dei martiri di Chicago come festa del lavoro, ma non negli Stati Uniti, dove sono stati assassinati, lì il Labor Day viene festeggiato a settembre. Nel 1992 è stata apposta una targa vicino al luogo in cui si trovava il palco degli oratori che ricorda che i fatti di Haymarket hanno dato origine alla festa dei lavoratori. Per chi volesse approfondire ci sono alcuni libri. Di Louis Adamic, Dynamite, storia di violenza di classe in America. Di Riccardo Meglia, I martiri di Chicago. In I quaderni di alternativa libertaria, Albert Parsons, la vita dell'anarchico e martire del lavoro di Chicago. Si conclude anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!